Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Uno dei problemi più antichi dell'umanità. E chissà quanta gente oggi stesso avrà discusso su questo tema. Va bene, la parola a Emma. Ciao a tutti, sono la mamma di un bambino di 10 anni e stiamo partendo per il mare. Dopo pranzo può fare il bagno subito o è meglio che aspetti? Ogni volta grandi discussioni, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Risponda a questa domanda Andrea Gentile. Ciao Andrea. Ciao Federico e ciao Chiara. Ciao Andrea, un collega, giornalista di scienza, scrive per Wired, però è anche autore di un libro, La scienza sotto l'ombrellone, di cui abbiamo parlato anche nel nostro programma Mebius, edito da Codice Edizioni. Questa domanda mi ha tormentato per tutta l'infanzia. Ma si può fare il bagno subito dopo mangiato? Allora, dipende dalla persona che risponde, perché a livello internazionale non c'è effettivamente un consenso univoco. Però in Italia in particolare ci si riferisce a quella che è la fisiologia umana di base. In particolare, durante il processo digestivo, il sangue solitamente va verso gli organi della digestione, cioè lo stomaco e l'intestino. Mentre siamo in acqua, quindi invece cerchiamo di muoverci e i muscoli richiedono molta molta energia, chiaramente questa energia e il sangue ossigenato viene meno e quindi c'è un rischio maggiore di crampi e quindi un eventuale rischio poi di annegamento. Dall'altro lato invece c'è la questione dello sbalzo termico, ovvero dopo aver mangiato potremmo entrare in acqua all'improvviso e avere un'acqua abbastanza fredda e questo sbalzo termico potrebbe bloccare la nostra digestione. In questo caso ci sarebbe nausea, un abbassamento di pressione e magari anche uno svenimento, quindi un pericolo abbastanza concreto. Però ipotizziamo di essere, non so, sull'Adriatico, insomma, sì, più o meno 30 gradi, dai, questo sbalzo termico eventualmente non ci sarebbe. In ogni caso bisogna stare comunque attenti. Perché dicono assolutamente i medici che bisogna attendere che almeno la parte gastrica della digestione sia andata. Ogni santo cibo ha il suo tempo di digestione. Più il cibo è complesso, ovviamente, più bisogna attendere affinché questa fase digestiva sia passata. Però basta dare anche un po' qualche esempio. L'acqua, per esempio, quando lo stomaco è vuoto, passa direttamente lungo lo stomaco e va direttamente all'intestino, quindi non dà problemi. Invece, cioè non deve essere digerita, diciamo. No, non deve essere digerita, viene assorbita abbastanza facilmente. Però nessuno mangia solo acqua a mezzogiorno. Certamente, però il cibo per eccellenza col caldo estivo, vuoi per esempio un'anguria. La frutta, via. Sia acqua sia zuccheri, ci vuole magari intorno ai 20 minuti per riuscire a digerirla. Ah. Per l'insalata, per le verdure crude e cotte ci vuole un po' di più. L'insalata, infatti, la verdura cotta impiega circa 50 minuti per terminare la propria. Allora avevano ragione. Zie, le mamme. No, perché poi è un attimo che tu ti fai un fritto misto quando sei in spiaggia, sì. E lì è un disastro, cioè fai il bagno alle 16. Per quello forse. Bisogna aspettare almeno le 3 ore di rito, perché ovviamente il fritto, quindi tutti i vari grassi che ci sono nell'olio, hanno bisogno di molto più tempo per essere stati. Però Andrea, in quelle spiagge lunghe con l'acqua, che tu cammini verso il mare per 200 metri, ce l'hai sempre alle caviglie. Cioè se non ti immergi. No, dico, dove l'acqua è più calda che fuori, lì invece puoi sguazzare tranquillamente. Beh, lì direi di sì, non penso ci siano grandissimi rischi di crampi, uno si siede direttamente se l'acqua è abbastanza bassa. Bisogna anche dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato una serie di fattori di rischio per quanto riguarda l'affogamento e devo dire che, scartabellando tra i vari file, non c'è il rischio da ingestione di un pasto pesante o della parmigiana di melanzane. La cosa più importante in questo caso è il consumo di alcol. Quello è davvero uno dei fattori che comportano un rischio maggiore. Ma quello perché altera i sensi? Certo, perché in ogni caso altri sensi, perché c'è un maggiore senso di sicurezza e non ci si rende conto del pericolo imminente. Ah beh, ma non c'entra con la digestione quello? Fortunatamente no, a meno che uno non, ovviamente insieme a un pasto, anche vanno digeriti tutti gli zuccheri. E forse però la combinata alcol che rende più lenta la digestione, allora questo forse è una complicazione. Cioè fritto misto e bicchiere di vino, ragazzi, non fate il bagno fino alle 17 almeno. Poi c'è la famosa... cassola milanese, che già normalmente che però non si trova tre in giorni, quindi se la mangi a fine luglio fai il bagno il luglio dell'anno dopo. Meglio stare attenti. Tutto chiaro, tutto chiaro. Quindi non abbiamo in realtà sfatato una bufala. C'è della verità, c'è della verità, della saggezza popolare. Grazie Andrea, buona estate. Grazie anche a voi. elementare@radio24.it, mandateci anche voi come Emma le vostre domande, i vostri rompicapo di scienza, perché Federico, rispondiamo a tutti? A tutti assolutamente. Ci scrive Gina Gallina da Montepulciano, ci chiede: mio figlio vuole fare l'astronauta, è decisissimo, però lui è abituato a prendere inderogabilmente tutte le mattine una tazza di zabaione, come si sbattono le uova nello spazio? Elementare Watson.